Now, topic of our Dhamma talk this evening is hindrances in the development of the meditation practice. L'argomento del discorso di questa sera riguarda gli ostacoli che creano difficoltà nella pratica di meditazione. Now, hindrances certainly may arise in our normal life. Gli ostacoli possono sorgere nella nostra vita normale. For instance, when we travel from one place to another, let's say, as a meditator, we travel from our home to a meditation center for a retreat, then various things can happen. Per esempio, immaginiamo di metterci in viaggio dalla nostra casa fino a un centro di meditazione per un ritiro, però diverse cose possono capitare. So, on the way to the airport, there may be a traffic jam, and suddenly then we can barely make it. Potrebbe esserci un ingorgo stradale nel tragitto verso l'aeroporto e ce la facciamo appena. And so if you happen to be bald-headed, then you might even get particularly checked by security, by airport security. E se ti capita di essere pelato, allora corri il rischio di essere ancora più controllato dalle guardie di sicurezza dell'aeroporto. No. You've barely made your flight, you're sitting inside of the plane, you're waiting for departure, and suddenly then a thunderstorm sets in. Se l'avete fatta malapena a prendere il volo, siete seduti comodamente, finalmente all'interno dell'aereo e improvvisamente comincia un temporale. And this thunderstorm goes along with lightning, and then the captain announces, "Hi, folks. Sorry to say, but the departure will be delayed." Allora questo temporale viene con tuoni e fulmini. A un certo punto si sente il pilota che dice, che comunica ai passeggeri, "Mi dispiace, ma questo volo sarà rimandato, sarà in ritardo." Now, after maybe 20 minutes or half an hour, the thunderstorm has passed and suddenly then the plane is finally taking off. Dopo 20 minuti o mezz'ora passa il temporale e l'aereo finalmente decolla. So you enjoy the flight to your first destination. E quindi vi godete il viaggio fino alla prima destinazione. However, because your first plane took off with a delay, then come in late, and suddenly you barely make your connecting flight. A causa del ritardo di questo primo volo, allora arrivate in ritardo al secondo, cioè all'aeroporto, e di nuovo ce la fate proprio a malapena a prendere il volo successivo. No, you make the connecting flight, but not your suitcase. Too bad. Ce la fate a prendere il volo successivo, ma non la vostra valigia. Peccato. No. The second flight goes well. You make it to your final destination. Quindi il secondo volo va bene e arrivate finalmente alla vostra destinazione finale. However, arrival at the final destination is also slightly delayed. Ma anche questo arrivo alla vostra destinazione finale è in ritardo, leggermente. And on top of that, at your final destination, you're waiting at the baggage claim for your suitcase to show up, and suddenly the baggage, carousel or so, it keeps rotating and rotating, but your suitcase just is not there. Poi arrivate all'aeroporto, andate per prendere la vostra valigia e continuano a girare, come si chiamano, i tapis roulant, insomma, quelli delle valigie, ma la vostra valigia proprio non si vede. So what to do? You remember there's a baggage claim, so you file a case. Allora, cosa fate? Andate a denunciare lo smarrimento del bagaglio all'ufficio apposta. Now, you know, this is not a matter of 5 minutes, it takes a little bit longer, and with this you then miss the shuttle bus to your retreat center. Questo richiede non solo 5 minuti ma un po' di più, e quindi di nuovo tardate e perdete il vostro autobus che vi avrebbe portato al centro di meditazione. Now, the shuttle bus is gone, what is left is a taxi. And the taxi driver, you tell the taxi driver you're in a destination, the taxi driver confidently says, yes, yes, I know where this is, and takes off. Quello che rimane da fare è prendere un taxi. Allora dite la vostra destinazione all'autista, l'autista dice sì, sì, non vi preoccupate, e si parte. After an hour or two of driving, you reach a place, but it turns out to be the wrong place. An hour or two. Dopo una o due ore, effettivamente arrivate in un luogo, ma poi solo per scoprire che è il luogo sbagliato. And you intended to go to a meditation center where a Mahasi meditation retreat is going to take place, and you end up in a Goenka center. Quindi la vostra idea era di andare in un centro di meditazione dove viene insegnato nella tradizione Mahasi, e invece vi ritrovate ad essere in un centro di Goenka. So, finally, you and your taxi driver realize you're on the wrong place, and eventually you get correct directions and you end up in the right place. Allora poi, dopo aver fatto questa scoperta insieme all'autista del taxi, allora riprendete la strada e finalmente arrivate nel posto giusto. And so, then, things are not too bad. And after a couple of hours, after you've arrived at the meditation center, the correct meditation center, your suitcase also makes it. E le cose poi non vanno così male, perché un paio d'ore dopo che siete arrivati nel vostro giusto centro di meditazione, arriva anche la vostra valigia. Now, just like you could face, and this story here is not just from pure imagination, it's based on the experiences of two people. Quindi questa storia non è completamente inventata, basata sulla fantasia, ma è stata raccontata da ben due persone. And the last part about getting delivered to the or sent to the Goenka Center, that's an experience of Victor Bird, who came to Pian de Chileji all the way from Long Beach, California. Quindi, quest'ultima parte del fatto di ritrovarsi in un centro di Goenka si riferisce a un meditante che era qui 2 anni fa, che praticamente ha fatto un viaggio lunghissimo partendo da Long Beach nella California. And most of the other part is my personal experience. Invece tutto il resto è l'esperienza personale del venerato. Not including the shuttle bus, that's another person's experience. Invece quella della navetta, diciamo, dell'aeroporto, quello invece non c'entra, è l'esperienza di un'altra persona. Quindi sono 3 storie messe insieme. Yes, so 3, yes, even 3 people. So, now, just like plenty of hindrances can arise during a journey, so too, plenty of hindrances can arise during our life journey, for instance, with a partner or companion or spouse. Allora, così come ci possono essere tanti ostacoli in un viaggio, allo stesso modo potrebbero esserci tanti ostacoli nel viaggio della nostra vita, per esempio nella nostra relazione con un partner o con un coniuge. And so at first things look very rosy, and our partner or spouse seems like the perfect man, or seems perfect in every respect, but then after a while we realize that mental hindrances are there. So at times, maybe anger, our partner is displaying a lot of anger, or at other times our partner is displaying a lot of restlessness, and then when we take a careful look at ourselves, we might find that it's even worse. Allora, a un certo punto all'inizio del rapporto tutto va benissimo, sono tutte rose e fiori, sembra la persona giusta, perfetta, però dopo un po' di tempo potrebbero sorgere dei difetti mentali. Uno può vedere per esempio che ogni tanto il partner ha delle esplosioni di rabbia, per esempio, oppure che è molto agitato, irrequieto. Però guardando poi dentro di sé uno si accorge che forse il proprio stato mentale è ancora peggio. No, likewise, hindrances tend to arise in the meditation practice. It's not just all smooth sailing. Allo stesso modo questi ostacoli possono facilmente sorgere anche nella pratica della meditazione. Non è un navigare sempre tranquillo. And so, the Buddha has certainly given in the Anguttara Nikaya a beautiful illustration for those five hindrances. E nell'Anguttara Nikaya il Buddha offre una bellissima metafora per spiegare questi cinque ostacoli. So he says, there are five impurities of gold impaired by which it is not pliant, not wieldy, lacks radiance, is brittle and cannot be wrought well. Allora, ci sono cinque impurità che in qualche modo impediscono all'oro di essere puro, di essere malleabile. Lacking radiance. Quindi gli fanno sì che perda la sua radiosità. Is brittle. E si frantuma molto facilmente. And cannot be wrought well. E quindi non può essere ben lavorato. What are these five impurities? Allora si chiede, quali sono queste cinque impurità? Iron, copper, tin, lead and silver. Allora sono il rame, il piombo, l'argento, tin. E l'alluminio, la latta. Mm. And silver. I've already said silver. Sorry, so maybe. So, iron, copper, tin. Allora il ferro, il rame, l'alluminio, l'argento, and the last? Lead. E il piombo. But if gold has been freed from these five impurities, then it will be pliant and wieldy, radiant and firm, and can be wrought well. Ma se l'oro viene liberato da queste impurità, allora sarà malleabile, avrà la sua lucentezza, non si frantumerà, quindi rimarrà solido e sarà possibile lavorarlo. Whatever ornaments one wishes to make from it, be it a diadem or a earring or a necklace or a golden chain, it will serve that purpose. E quindi qualunque gioiello uno volesse fare con questo oro, un diadema, un orecchino, una collana, potrà essere utilizzato per questa funzione, cioè potrà svolgere la sua funzione. Likewise, there are five impurities of the mind impaired by which it is not pliant, not wieldy, lacks radiance, is brittle and cannot be wrought well. Quindi allo stesso modo ci sono cinque impurità della mente che fanno sì che la mente non sia malleabile o flessibile, che non sia radiosa, che sia brittle, vuol dire che sia, come si dice, fragile, che si possa frantumare, che facilmente si spezza, diciamo, e che non può essere lavorata in un certo modo. What are those five impurities of the mind? Well, the five hindrances of sense desire, of ill will, of sloth and torpor, restlessness and remorse, and skeptical doubt. Quali sono allora queste cinque impurità della mente? Beh, sono i cinque ostacoli, cioè il desiderio sensoriale, la malevolenza, la pigrizia, il torpore, la mente irrequieta, è il dubbio scettico. And to stay in this comparison, but if the mind has been freed from these certain five impurities, then it will be pliant, wieldy, and so on and so forth. E per rimanere in questa metafora, allora se la mente è libera da queste impurità, allora sarà malleabile, radiosa, eccetera, eccetera. And certainly then we can shape, you know, the mind into whatever we like to. E allora potremo modellare la mente come vorremmo. Now, these certain five hindrances occur in both the Vipassana practice as well as the Samatha practice. Quindi questi cinque ostacoli sorgono sia nella pratica di Vipassana sia in quella di Samatha. And so, those certain hindrances, when they arise in the Samatha practice or when we develop putting calm, then they hinder the development of or the arising of those states of absorption, jhanas. E quindi nella pratica di Samatha, quando stiamo cercando di sviluppare la calma, allora questi cinque ostacoli frenano lo sviluppo degli stati di assorbimento, quelli che chiamiamo jhana. And certain, when those certain hindrances arise in our Vipassana practice, then they hinder the development, further development in our practice. E invece quando sorgono nella pratica di Vipassana, frenano di nuovo il progressivo sviluppo, l'ulteriore sviluppo della pratica. Now, unless one has already attained some path and fruition knowledge, at the beginning of a retreat, one is likely, especially for new meditators, to experience or to come across these five hindrances. A meno che uno non abbia già raggiunto lo stadio del frutto, del sentiero e del frutto, allora all'inizio di un ritiro, soprattutto i principianti, è facile che provino questi cinque ostacoli, facciano esperienza di questi cinque ostacoli. And so when a group of meditators starts a retreat together on day one, and certainly then practices for a while, then commonly meditators after about 3 days or so, 2 to 3 days, start experiencing these hindrances. E quando un gruppo inizia insieme, quindi dal primo giorno, è facile che al terzo giorno comincino a fare esperienza di questi ostacoli. And so no wonder this morning during a number of the or during the interview with a number of our meditators here, meditators did report difficulties, plenty of difficulties. E quindi non c'è da stupirsi se nei colloqui di questa mattina diversi dei meditanti hanno riferito di queste difficoltà durante i colloqui. No. The fact that the hindrances arise in your meditation practice is actually a good sign. So don't worry. Il fatto che sorgano questi ostacoli nella vostra pratica di meditazione è in effetti un buon segno, quindi non vi preoccupate. And it means that your practice is moving ahead. E questo sono un segnale che la vostra pratica sta andando avanti. Now, in several passages from the Digha Nikaya and other texts, the five hindrances are frequently spoken of as defilements of the mind which weaken wisdom. E nel Digha Nikaya, così come in altri testi, questi cinque ostacoli sono indicati come dei difetti mentali che indeboliscono la saggezza. And certainly these hindrances have been characterized in different certain ways, and one way is to say that certainly they block the development of one's practice towards the realization of the Dhamma. E quindi sono stati descritti in vario modo. Uno è quello che dice che bloccano il progresso della pratica verso il raggiungimento del Nibbana. Now, much could be said about every single of these five hindrances, and we simply don't have the time for this, and I don't want it don't want to overstretch your attention. Ci sarebbe molto da dire su ciascuno di questi cinque ostacoli, ma non abbiamo molto tempo e non voglio mettere troppa pressione sulla vostra attenzione. And certainly, therefore, I will not describe each and every of the hindrances, but just maybe the hindrance of ill will, and certainly then maybe a little bit about sloth and torpor, and then restlessness. E quindi parlerò solo di alcuni di questi ostacoli, e precisamente quello della malevolenza, poi un pochino del pigrizia e torpore, e poi l'ostacolo dell'irrequietezza. Now, when we come across some undesirable object, then it may easily happen that ill will arises in the mind and becomes quite active. Quando incontriamo un oggetto non desiderabile, è molto facile che sorga nella mente della malevolenza e che diventi molto attiva. And suddenly then, we might suddenly experience a certain dissatisfaction towards suddenly the object, and suddenly maybe a certain aversion or straightforward anger or even rage. Potrebbe sorgere della insoddisfazione verso l'oggetto o della dissatisfaction, when you said the second dissatisfaction, aversion. È avversione, oppure della rabbia nei confronti dell'oggetto, o addirittura proprio della rabbia molto forte, rage, proprio della furia. And so, at first, when this happens, then we might think, well, it's the fault of the object. There's something wrong with the object. And the object could be a material thing, or could be some human being, or just being altogether. E quando sorge, quando ci si trova in questa situazione, spesso si tende a dare la colpa all'oggetto per il sorgere di questa avversione, di questa rabbia, e l'oggetto potrebbe essere un oggetto materiale o anche un essere umano. And so, when we start investigating this particular situation, then we will find that well, there's a lot of anger in one's own mind. Quando cominciamo a osservare attentamente questa situazione, potremmo scoprire che in realtà c'è molta rabbia nella propria mente. And at a later point, we might find, and this is with more practice, that the mental state or the hindrance of ill will is latent in the mind, and it gets somewhat activated, and then it's even looking for some object to explode on. E quando andiamo avanti con la nostra pratica, potremmo anche scoprire che questo stato mentale della rabbia, della malevolenza, è in una forma latente nella nostra coscienza, ed è come se cercasse un oggetto esterno che lo attivi, viene attivato in questo modo. And so, if we cannot explode based on the first object, then maybe on the second, if not on the second, then maybe on the third. But sooner or later, the explosion is likely to happen. E se non esplodiamo alla prima occasione, quando sorge il primo oggetto, è facile che lo faremo al secondo oggetto, oppure al terzo, ma prima o poi questa esplosione avverrà. And so, as a meditator, you might have noticed at first everything is okay, and you feel quite comfortable with your fellow meditators. But then, after maybe two or three days of practice, your neighbor maybe breathes a little bit loudly, more than you think is necessary, and then your mind gets totally angry about this. Why can this person, my fellow meditator, not breathe in a way that it doesn't disturb me? Quindi potresti iniziare un ritiro e pensare che tutto vada bene, avere un, come dire, una buona opinione anche dei vostri compagni di meditazione, stare molto bene in sala. Poi improvvisamente notate che il vostro vicino di cuscino respira in un modo troppo forte, più del necessario. E allora sorge in voi dell'irritazione, della rabbia. Vi chiedete perché non può respirare come dico io? And so then common cases for anger, manifestations of anger in a meditation center, in a meditation hall, are over fans and fluorescent lights. Altri, come dire, spunti per il sorgere di questa rabbia, questa avversione all'interno di una sala di meditazione, spesso sono le ventole, come si chiamano? I ventilatori, oppure le luci fosforescenti. And like in, you don't have any of those here. But in Burma, for instance, where people from different countries practice together, then you have, let's say, a group of Koreans who come from a country that overall has a pretty cold climate, and then you have some other meditators who come from a place like Malaysia, where it's relatively warm and agreeable, and then typically sooner or later one Korean yogi will jump up and switch on the fan, the ceiling fan, and then some of the other yogis will start, let's say Malaysian yogis, will start protesting. No, we don't want the fan on, I can't take it, and I'm getting cold and whatnot. E quindi in Birmania capita spesso una situazione di questo genere, siccome ci sono meditanti che arrivano da diversi parti del mondo, per esempio ci sono i coreani che arrivano da una zona dove fa abbastanza fresco e insieme in sala si trovano con dei malesi, no? Che provengono da un paese più caldo. Allora spesso c'è una discussione tra loro rispetto al ventilatore, perché i coreani lo vogliono acceso e i malesi invece vanno a spegnerlo. Yeah. Now, the classical definition of hatred is really to the point. Quindi la definizione classica dell'odio è veramente, come dire, adeguata, proprio precisa, la descrive molto bene. First of all, the whole range of states such as aversion, ill will, anger, irritation, annoyance, animosity, and so on, come under the mental factor of dosa, quindi, of hatred. Sotto questo stato mentale di dosa in pali, cioè di odio, rientrano tutti gli altri stati che possono essere l'avversione, la rabbia, l'irritazione, il fastidio, animosity, l'animosità, eccetera. And so then the characteristic of the ill will is given as ferocity. La caratteristica di questa malevolenza è data come ferocità. Now, in wildlife, you have certain animals that are rather aggressive. Quindi in natura, natura selvaggia, ci sono alcuni animali che sono molto aggressivi. And so if you think of a tiger, maybe a Bengal tiger, these are huge creatures. Then a hungry tiger may or for sure will go after its prey with lots of intensity. Pensate a una tigre del Bengala, sono animali grandissimi. Allora se una tigre è affamata, allora seguirà la sua preda con molta intensità. And so The same thing goes for a mind in which hatred has arisen. La stessa cosa succede ad una mente dove sorta l'odio, dove sorto l'odio. And when it's overcome by anger or hatred, then it becomes pretty wild. E quando in preda questo questa rabbia, questo odio, allora diventa proprio un po' selvaggia. And so, then one might even go after the victim. One might want to persecute, the prey or the victim. E quindi uno potrebbe poi rincorrere la propria vittima, come se inseguisse la propria preda. And with an intention to inflict harm on the being. E con l'intenzione proprio di infliggere fare del male a questo essere. And perseguirlo. And then the aspect of persecuting is the manifestation of ill will. So the way we experience it. Quindi questa persecuzione è la manifestazione della malevolenza, cioè è come noi la sentiamo, come noi la proviamo, come si manifesta nella nostra mente. And so, the function of ill will is to spread or to burn up its own support, namely the body and the mind. La funzione è quella di espandersi e di bruciare il proprio sostegno. Che corrisponde alla mente e al corpo. So usually when we get really angry with another person or a particular situation, then the mind will be all burning hot. Di solito quando ci arrabbiamo contro una persona, contro una situazione, la mente si scalda, diventa bollente, molto molto calda. And at that point, it will be very difficult to talk normally. A quel punto sarà difficile parlare in modo normale. And we may repeat what we said over and over and over again. Potremmo trovarci a ripetere le stesse cose molte volte. Or all'infinito. Or we may not suddenly even be capable of formulating one entire sentence correctly. Potremmo anche non essere in grado di formulare neanche una frase completa in modo corretto. And suddenly when anger, strong anger has arisen in the mind, then it will also have an impact on the body. Quando una forte rabbia è sorta nella mente, avrà anche un impatto nel corpo. Can you think of certain manifestations? Riuscite a pensare a delle manifestazioni della rabbia nel corpo? The throat. Swells. Oh, the throat swells? No, oh, I didn't know that one. What else? Cos'altro? You get all red in the face. Yes, it's correct. And then the body also might be tensing up. Anche il corpo diventa teso. And the hand may even form a fist. Anche la mano potrebbe chiudersi a pugno. And then we might perspire a lot. Potremmo cominciare a sudare molto. And what about our heart? Il cuore come si comporta? It will be very fast, and our breathing also might become quite forceful. Anche il respiro diventa molto forzato. And this kind of situation is good for health or not? Secondo voi questa situazione fa bene alla salute? No. No. Not at all. Niente affatto. So that's why, the Buddha is saying that this the function of hatred is to burn up its own support. Namely, it burns up, it causes damage to our own body, it causes damage to our own mind. Ed è in questo senso che il Buddha dice che la rabbia è come se bruciasse il proprio sostegno, e quindi quando è presente la rabbia nella mente è come se distruggesse o facesse del male al nostro corpo e alla nostra mente. Now, some people think it's perfectly normal to get angry every now and then. And whenever some unpleasant situation arises and the mind gets aversive about this, then they think, oh well, that's okay, and they just let it happen. Ci sono alcune persone che pensano che sia normale ogni tanto arrabbiarsi, e quindi quando la mente diventa avversiva rispetto a una determinata situazione dicono, e vabbè, sono cose che capitano, insomma, nella normalità. So if you have a habit of flying into rage, issues, then your anger overall is likely to become stronger and stronger. E se avete l'abitudine di arrabbiarvi anche su delle piccole cose, allora molto probabilmente la vostra rabbia diventerà sempre più forte. So in this context, the Buddha has the following advice to give, namely, there are objects causing aversion, frequently giving unwise attention to them. This is the nourishment for the arising of ill will that has not yet arisen. Allora, questo è il consiglio che dà il Buddha a questo proposito. Ci sono degli oggetti che causano avversione nella mente. Il prestare un'attenzione non saggia a questi oggetti provocherà la nascita nella mente di questa malevolenza. And it also nourishment for sarà un nutrimento per arising of ill will that has not yet arisen. Sarà un nutrimento per la malevolenza che non è ancora sorta. È and come se alimentasse un'ulteriore malevolenza. And also as a nourishment for the increase and strengthening of ill will that has already arisen. E inoltre alimenterà e rafforzerà quella malevolenza che invece è già sorta. And so, obviously, then the opposite leads to a decreasing of ill will. E quindi ovviamente dal lato opposto c'è un ridimensionamento, una riduzione della malevolenza. So if we keep reflecting about loving kindness, if we keep applying loving kindness in with regard to bodily activities, with regard to our verbal conduct and the mind, then this is going to lead to a decrease in anger. E quindi se continuiamo a praticare la gentilezza amorevole, sia attraverso il comportamento, le azioni del corpo, sia attraverso il linguaggio, che nella mente, allora questo inevitabilmente porterà a un ridimensionamento della malevolenza. So if someone has attacked you and then you respond by retaliating, then this is not going to help the situation. Quindi se qualcuno vi attacca e voi rispondete, come si dice in italiano, in maniera vendicativa, come per rifarvi di un torto subito, allora questo non aiuterà la situazione. Okay, right. And it is by applying loving kindness that the anger of the other person or the attacking person will hopefully subside. Ed è attraverso la gentilezza amorevole che la rabbia dell'altra persona molto facilmente diminuirà e sparirà del tutto. Now, the commentary to the Satipatthana has some wonderful reflections on the futility of anger. Il commentario del Satipatthana ha delle utili riflessioni sulla futilità, si dice in italiano, futilità della rabbia o della malevolenza. And Satna there, it Satna says, anger towards another person is just as if someone wishing to hurt another or hit another person takes hold of glowing coals or a heated iron rod or excrement. Allora, dice, se una persona che vuole colpire un'altra persona con rabbia è come se prendesse in mano per colpirla dei carboni ardenti oppure del metallo, anche questo ardente, come si può dire, fuso, incandescente, oppure anche degli escrementi. So, yeah, when you grab an iron or a burning hot iron rod, who's going to suffer first, you or the person you're going to attack? Quindi quando prendete in mano un ferro rovente, chi è che si farà male del prima? Chi è che si brucerà del prima? Voi che lo prendete in mano o la persona che intendete attaccare? So, in the end, the anger will fall, our anger will fall onto ourselves first. E quindi alla fine la nostra rabbia si ripercuoterà prima su di noi che sull'altra persona. Mm. And so, as an illustration, the commentary says it's like throwing dirt or dust against the wind. It will fall back onto us. E per fare un altro esempio, i commentari dicono come buttare della polvere contro vento. La polvere ci tornerà addosso. Now, how do we, or when anger has arisen in our stream of consciousness, and then how do we deal with it? Allora, quando è sorta la rabbia nel nostro flusso di coscienza, allora come la gestiamo? The first approach would be to be mindful of it, to recognize that anger has arisen in the mind, and suddenly to label this accordingly as anger, and then to observe it in a non-reactive manner and to know its nature. Allora, il primo approccio sarà quello di riconoscere che è sorta rabbia nella nostra mente, poi osservarla in maniera non reattiva e poi prima di osservarla, etichettarla come rabbia, poi osservarla in modo non reattivo e poi cercare di conoscerne la natura. So the Buddha recommends that we face the anger, that we directly look at it to know its, or come to know its nature. Il Buddha ci suggerisce di affrontare la rabbia, di guardarla in faccia, proprio per riuscire a conoscere la sua natura. And it is in facing it that we come to know something about it, and then gradually also the anger might subside. Ed è proprio affrontandola che noi riusciremo a conoscerla meglio e prima o poi se ne andrà. And so the Buddha did not recommend turning away from the anger, ignoring it, not looking at it. Quindi il Buddha non suggerisce di allontanarsi dalla rabbia, di ignorarla, di non prenderla in considerazione. Mm. Now, other ways of dealing with this anger are mentioned in the commentary to the Satipatthana Sutta, namely as learning the method of practicing loving kindness meditation, and then secondly actually doing the loving kindness meditation. Allora, alcuni consigli sono dati nel commentario Satipatthana su come affrontare la rabbia, e lì si dice che occorre first knowing the loving kindness meditation and then actually doing it. Quindi prima conoscere la pratica della gentilezza amorevole e poi il metterla in pratica. Mm. So, actually practicing loving kindness meditation is very much along the line of the metta chanting that we do almost every night. Quindi la meditazione della gentilezza amorevole è molto in linea, molto simile al canto di metta che noi facciamo alla sera. So, well, first of all, we wish, or we radiate thoughts of loving kindness, wishing, may I be free from danger and enmity, may I be free from mental suffering, may I be free from physical suffering, and may I look after myself happily. Allora, innanzitutto si comincia facendo degli auspici verso se stessi, quindi che io possa essere libero dai pericoli, che io possa essere libero dalla sofferenza mentale, possa essere libero dalla sofferenza fisica, che io possa essere che io possa badare a me stesso e vivere felicemente. And then along the same line, we also radiate thoughts towards thoughts of loving kindness towards others. E poi irradiamo questi pensieri di benevolenza verso gli altri. Now, sometimes what happens in the meditation practice is meditators experience anger, and then immediately they apply loving kindness meditation, and that would not be the way to go. Please, by all means, always first try to be mindful of the anger. Quello che succede durante la meditazione a volte è che sorge la rabbia e il meditante immediatamente comincia a praticare la gentilezza amorevole. Allora il venerabile suggerisce di non farlo, ma di piuttosto essere consapevoli della rabbia che è sorta. And so, it's only when the anger becomes really extreme and gets out of hand that then could consider doing loving kindness meditation. È solo quando la rabbia diventa estrema e sfugge dal controllo che allora può essere utile fare la meditazione di gentilezza amorevole. No. Another way of dealing with anger is by way of reflections and reflecting on the fact that when we act out of anger, then with this we will commit or we will perform an unwholesome deed. The unwholesome deed will have certain unwholesome consequences, karmic consequences, and those will fall back onto ourselves. E quindi un altro modo per trattare la rabbia è attraverso delle riflessioni. Per esempio, si può riflettere sul fatto che se noi agiamo spinti dalla rabbia, allora questo produrrà dei comportamenti non salutari, e i comportamenti non salutari avranno un effetto karmico comunque sulla nostra vita, quindi si ripercuoteranno comunque su di noi. And so, then, as mentioned earlier on, we reflect wisely on the anger, and we try not to nourish it in any form. Quindi possiamo appunto riflettere in maniera saggia sulla rabbia e cercare di non nutrirla più, non alimentarla. And so, seeking the friendship of a noble person who radiates a lot of loving kindness would be another way of dealing with it. Quindi cercare l'amicizia di una persona nobile che irradia questa gentilezza amorevole, questo può essere un altro modo per affrontarla, la rabbia. And then listening to a discourse on mindfulness or a discourse on loving kindness or just just Dhamma in general, that might help decrease the anger. Anche ascoltare un discorso sulla consapevolezza o sulla gentilezza amorevole o sul Dhamma in generale, questo può aiutare a ridurre lo stato di rabbia. Now, anger will be eradicated from the stream of consciousness totally only with the attainment of the third path. La rabbia sarà completamente sradicata dal flusso di coscienza solo quando si raggiunge il terzo stadio del sentiero. Okay. Now, let us take a quick look at the double hindrance of restlessness and remorse. Adesso analizziamo brevemente il doppio ostacolo della dell'irrequietezza e del rimorso. And so, this restlessness and remorse tends to arise at different points in a meditator's practice. Namely, it arises during the first insight knowledge, during the third insight knowledge, and then also during the ninth and tenth insight knowledge. Allora, questa also the remorse. Restlessness and remorse. Allora, or at least for the ninth, the restlessness. Allora, questi ostacoli dell'irrequietezza e del rimorso sorgono in diversi punti della propria pratica. Sorgono nella prima conoscenza dell'insight, nella terza conoscenza dell'insight e poi solo l'irrequietezza al nono insight. And the tenth. E il decimo, scusa. And certainly, so how do we experience certain restlessness and remorse? Namely, the mind is flitting from one object to another, and you try to keep it on one object for a longer period of time, and you just can't do it. Come sperimentiamo quindi questa irrequietezza? Beh, la mente saltella da un oggetto all'altro. Voi cercate di tenerla su un oggetto, ma non ci riuscite. And so you try to keep your mind in the present moment, but it will not stay there. And instead it goes into the future, it goes into the past. Volete far stare la mente nel momento presente, ma non ci vuole stare. Scappa e va o nel futuro o nel passato. And so you want to keep your mind with what is presently happening in this very body, and yet your mind is traveling all over the place. Volete tenere la mente su ciò che sta succedendo in questo corpo, ma non ci riuscite, la mente viaggia e se ne va dappertutto. It might go to Milano, it might go as far as Roma, or it might go even further than this. Arriva fino a Milano, poi va a Roma, o potrebbe andare ancora più lontano. Now, similar to restlessness is certain remorse, and certain the way we experience this is that suddenly we remember some unfortunate event from the past, let's say when we did something wrong, and suddenly we feel guilty about this, we feel bad about this. Allora, un stato mentale simile è il rimorso, quando noi pensiamo a qualcosa che è successo nel passato, magari il fatto di aver fatto del male a qualcuno. Allora sorge del senso di colpa, ci sentiamo male a questo riguardo. And so remorse is usually in the sense of having regretting to have done something unwholesome, or regretting to have missed an opportunity to do something wholesome. Quindi il rimorso corrisponde al rimpianto di aver fatto qualcosa di non salutare o di non aver colto l'occasione per fare qualcosa di salutare. And both of them, restlessness as well as worry or regret, cause agitation in the mind. E quindi sia il rimorso che la preoccupazione e il rimpianto creano questa agitazione nella mente. And so, like every mental state that has a particular function, the function of restlessness is to make the mind unsteady. Come tutti gli stati mentali hanno una determinata funzione, beh, la funzione dell'irrequietezza è quella di rendere la mente instabile. And in the case of the opposite mental state, namely of tranquility, its function would be to quiet down or to crush the restlessness, the disquiet. the disquietude, sorry. E quindi il invece la, lo stato mentale opposto, che è la, la calma, la tranquillità, ha la funzione di come dire, di contrastare, di schiacciare addirittura questa irrequietezza. And restlessness, for instance, manifests as turmoil in the mind. L'irrequietezza si manifesta. Did you say manifest? Yeah, yes. Manifest. Si manifesta come un turmoil, come un'agitazione nella like mente. Chaos. Sì, come se ci fosse un po' un caos nella mente, un turbinio. And so, reasons that lead to restlessness are unwise attention to it, namely thinking that certain restless or agitated state of mind is normal and then one allows it. Quindi le cause dell'irrequietezza è una non saggia attenzione a questo stato mentale, cioè il pensare che anche se sorge l'irrequietezza non è così importante, non è così grave, non gli si dà importanza. Now, the problem with most or with many people is they don't even realize how restless they are and how restless the mind is. Il problema è che la maggior parte delle persone non si accorge neanche di quanto è irrequieta e di quanto è agitata la propria mente. And so, we think it's quite normal to be hyperactive and whatnot. So we think we're successful, we have to act like this because we want to be successful, but it means the mind is not really calm. E noi pensiamo che sia normale essere così iperattivi e anzi che questo sia un segno di una persona di successo, ma non ci rendiamo conto di quanto poco calma sia la mente. No, there are various factors that bring about certain restlessness. And so, as mentioned already, one is unwise attention to mental disquiet. And the other one is excessive effort, or to put it differently, a pushy attitude towards one's own practice. Ci sono diverse cause per l'irrequietezza. Una l'abbiamo già detta prima, è questa attenzione non saggia allo stato mentale. E l'altro è un atteggiamento, un eccessivo sforzo, cioè è il come spingere troppo la propria pratica. And if one pushes one's practice too much, well, then both the mind and the body become pretty restless. Se uno spinge troppo la propria pratica, sia la mente che il corpo diventano irrequieti. And that's another reason or factor that contributes to restlessness is on retreat, even though you're not supposed to talk, you make the mistake and you talk to some other person, and that person brings you some bad news. This may then create much restlessness in the mind. Un'altra causa può essere quella di parlare con una persona durante un ritiro, anche se non si dovrebbe fare, e questa persona vi dà una brutta notizia, per esempio. Allora questo crea una grande irrequietezza nella mente. So let's say you're practicing peacefully at Pian Dei Chileji, and then a fellow meditator comes and tells you, have you heard already there's a revolution going on in Italy? Immaginiamo che voi stiate meditando tranquillamente qui a Pian dei Ciliegi e arriva un compagno di meditazione e vi dice: hai sentito che c'è una rivoluzione qui in Italia? No. In the case of, or as for causes for the arising of remorse or worry, we've mentioned two already, namely the wrongs of commission and omission. Mm-hmm. Quindi per quanto riguarda le cause invece della preoccupazione o del rimorso, due l'abbiamo già dette, cioè il ricordarsi di aver fatto una cosa sbagliata o di non aver colto l'occasione per farne una giusta. Lui l'ha chiamato in un altro modo, ma il concetto è questo. And then there could also be a lack of clarity with regard to the Dhamma. potrebbe anche essere una causa, potrebbe essere la mancanza di chiarezza riguardo al Dhamma. Now, to eradicate the anger from the stream of consciousness is difficult, but within reach. To entirely eradicate restlessness is even more difficult. It gets uprooted only with the attainment of arhatship. Quindi se sradicare lo stato mentale della rabbia è difficile, però insomma ci si può riuscire. Invece la l'irrequietezza è molto più difficile da sradicare dal flusso della coscienza, e si raggiunge questo obiettivo solo con lo stato di Arahant, che sarebbe l'ultimo stadio di illuminazione. Fortunately, when it comes to regret or worry, this gets uprooted through the third level of enlightenment. Invece, per quanto riguarda il rimorso, regret and worry, il rimorso e la preoccupazione, questo viene sradicato al terzo stadio del sentiero. And certainly, in the case of regret or worry, its characteristic is a subsequent regret. Subsequent regret. So one after another. But one has done something and then one regrets. Ah. E quindi la caratteristica del rimorso è un rimorso susseguente, si potrebbe dire. Cioè uno fa un'azione e poi immediatamente dopo se ne pente. And suddenly its function is to feel sorry for a transgression. La funzione è quella di restarci male per una trasgressione. And suddenly it is manifested as remorse itself. E si manifesta come il rimorso stesso. And so, the wrongs of commission and omission are considered to be the proximate causes for the arising of worry. So can you just repeat that? Wrongs of commission or omission? It means that you did something that you shouldn't have done. Yes, and you didn't do something that you should have done. There you go. And this is the proximate cause? The two proximate causes. Quindi le due cause prossime di questo rimorso sono le cose sbagliate fatte per omissione, e nel senso che si sarebbe dovuta fare una cosa ma non la si è fatta, e il contrario, non si sarebbe dovuta fare una cosa ma invece la si è fatta lo stesso. No. How do we deal with restlessness and remorse when these two factors have arisen in our practice? Well, first approach is always to be mindful of them. Allora, come affrontiamo queste irrequietezze e rimorso quando sorgono nella nostra pratica? Il primo approccio è, come al solito, quello di esserne consapevoli. And suddenly, should suddenly this not work, then we might also consider other ways of dealing with restlessness and remorse, such as having much learning about the Buddhist texts. Because some restlessness may arise, restlessness and worry may arise out of a lack of knowledge. E quindi un altro modo per affrontare questo stato di irrequietezza e rimorso è il conoscere meglio i testi buddhisti. Perché questa irrequietezza e rimorso possono essere causati proprio da una ignoranza, una mancanza di conoscenza dei testi. And certainly if one has certain questions, one is not quite clear about referring to or relating to the text, and then one should investigate, one should ask questions. Quindi se uno ha dei dubbi o ci sono delle cose poco chiare rispetto ai testi, uno dovrebbe fare, insomma, dovrebbe chiedere, dovrebbe conoscere la verità, chiarire i propri dubbi. Other ways of dealing with restlessness and remorse are association with a mature person, a person who lives the opposite qualities, namely of calmness. un altro modo per affrontare le irrequietezze e il rimorso è frequentare persone mature, cioè persone che vivono prevalentemente con uno stato mentale opposto, cioè persone molto calme. So if you live in association with a person who is really calm mentally as well as physically and verbally, then gradually this may have a positive influence on you. Quindi se vivete vicino o se frequentate una persona che è molto calma sia mentalmente che come comportamento che verbalmente, questo sicuramente avrà una influenza su di voi. And then frequently a talk on this might help, or reading up on this topic might also help. E quindi anche in questo caso sentire un discorso su questo argomento o leggere qualcosa sull'argomento potrebbe essere di aiuto. No, in terms of really practical advice for meditators, what could you do when much restlessness has arisen? Well, let's say your mind wanders off all the time, then with patience and determination you try to catch the wandering mind, you label it, you observe it in a non-reactive manner, you try to know its nature, and eventually bring your attention back to the primary object. Allora, dei consigli pratici riguardo a quando sorge l'irrequietezza nella vostra mente. Allora, come al solito cercare di applicare, dunque dice, la pazienza e la perseveranza. Quindi quando la mente, scoprite che la vostra mente sta divagando, allora etichettatela, cercate di osservarla in maniera distaccata, cercate di osservarne di coglierne, di conoscerne la natura. And then go back to your primary object. Yes, right. E poi quando la mente si è calmata, quindi l'irrequietezza se n'è andata, tornate al vostro oggetto primario. Okay. And if, for instance, your mind wanders off 1,000 times in a sitting, well, then with much patience and determination, bring it back. Sì, quindi determinazione, forse detto, non perseveranza. Quindi qua, se la vostra mente dovesse divagare anche 1,000 volte durante una seduta, quindi con molta pazienza e determinazione la prendete e la riportate indietro. Mm. And then when it comes to physical restlessness, there's at least two or three things that you could do. Namely, first of all, try to be aware of the intention to move or to fidget, to change your posture. Per quanto riguarda l'irrequietezza fisica, anche qui ci sono diverse cose che si possono fare. La prima è cercare di essere consapevoli della intenzione che avete di spostarvi o di, come dire, di muovervi in continuazione. And so, should this not help, then and physical movement is actually taking place, then through self-discipline try to curtail this. Quindi se questo non dovesse funzionare, allora il corpo si muove lo stesso, allora utilizzate l'autodisciplina per poter contenere questo movimento, questo comportamento. And then also make it a point to sit for the predetermined period of time. So let's say if you intend to sit for 1 hour, then sit for the full hour. Quindi prendetevi l'impegno di sedervi per il tempo stabilito. Quindi se decidete di stare seduti per un'ora, fate del vostro meglio per stare seduti per l'intera ora. Right. And so, by patiently working with the restlessness, you will see sooner or later it will lose its momentum over the mind and the body, and then you'll be quite okay. E quindi lavorando con pazienza sull'irrequietezza, voi vedete che con il tempo perderà questa sua energia che ha sulla mente, e poi sicuramente andrete molto meglio. So what has been explained with regard to anger as well as the hindrance of restlessness and remorse, then more or less also applies to the other hindrances, namely of sense desire, sloth and torpor, and the skeptical doubt. Quindi quello che abbiamo detto riguardo alla rabbia e riguardo all'irrequietezza e al rimorso può valere anche per gli altri tre ostacoli, quindi il desiderio sensoriale, l'ultimo, il dubbio scettico, la pigrizia, il torpore e il dubbio scettico. And in all cases, make sure that you observe the hindrance in a non-reactive manner, and make sure that you do not identify with it, that you don't get entangled in the hindrance. Observe it with detachment. Ma la cosa importante è quando sorgono questi ostacoli di osservarli con distacco, in un modo non reattivo, e soprattutto di non identificarsi con questo stato mentale. And certainly, in all cases apply mindfulness. E in tutti I casi applicate la consapevolezza. And so, then if mindfulness does not work, then you may have to look for other ways. Se non funziona la consapevolezza, potreste dover cercare degli altri modi. So, for instance, in the case of sloth and torpor, as a second way of dealing with it, you might want to increase or boost your effort. Quindi nel caso della sonnolenza e del torpore, o della pigrizia e torpore, potreste voler aumentare la vostra energia, il vostro sforzo. Now, working with, experiencing and working with hindrances obviously is not pleasant, but in the end it helps you to strengthen your mind. Quindi lavorare con questi ostacoli non è facile, non è piacevole, però alla fine vi aiuterà a rinforzare la vostra mente. And so, when applying effort, mindfulness, and in particular concentration, one can overcome these hindrances, and certainly with this then, wholesome mental states have a chance or an opportunity to arise in the stream of consciousness. E quindi applicando lo sforzo, la consapevolezza, soprattutto la concentrazione, allora uno riesce a superare questi ostacoli, e in questo modo degli stati mentali salutari potranno sorgere. So do know the hindrances are part of the meditation practice, and have the courage to face them whenever they come up, and also try to learn as much as possible about them. It will serve you well. Quindi I cinque ostacoli sono parte della pratica, e quindi abbiate il coraggio di affrontarli quando sorgono, e anche di imparare qualcosa da questi stati mentali, perché vi faranno un buon servizio, insomma, vi aiuteranno. Now, let me conclude today's Dhamma talk by wishing may you have the courage to face the hindrances when they come up, and may you also have strong mindfulness and good concentration to overcome them, and may this thing open the path for a further development in your practice, and eventually may this lead to the realization of the Dhamma. Allora, concludo il discorso augurandovi di affrontare con coraggio questi cinque ostacoli quando sorgono, che possiate sviluppare la consapevolezza e la concentrazione nell'affrontarli, che questo possa aprirvi il sentiero per un progresso nella vostra pratica, e infine per poter poi giungere infine alla realizzazione del Nirvana. Grazie. Sadhu, sadhu, sadhu.